Margherita, Margherita, Margherita, Margherita, Margherita, mua mamma, malve qui na panisi, Margherita, mua mamma, malve qui na panisi, Margherita, Margherita, Margherita, Margherita, Margherita, mua mamma, malve qui na panisi, Margherita, mua mamma, malve qui na panisi. Shiri-di-di-di-di-di, oh yeah, shiri-di-di-di-di-di.